a gomiti di prepotenza. Buon appetito a mezza, educazione inculcata in testa. Poi che resta? Dimmi che resta. Se è l'occorrenza, fotti il compare già dalla partenza. Guardo incantato, un mondo arrugginito, stuzzica un nervo saltato, partorisce un feto malato. Tu, fatti lo stomaco d'acciaio, acciaia il canino, mangia sassi e peperoncino, strappa il cuscino. Vivo nel barrio, dove un problema ricomincia come un carion, seppellisce nella bara il mio cranio. Sto col passo svelto, jeans bucato e giacca al vento. Il vento porta lupi sul cemento, sotto un cielo senza stelle, senza fiabe. Tocca la mia coldi e ti cancello dalle strade. Il mio bicchiere prende fuoco, il mio brodo bolle. Datti a gambe, scappa come roadrunner. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Diretto verso casa con lo sguardo spento. Roma è fredda e buia, attorno a me regna il silenzio. Sapore amaro per la doppio malto giù in gola. Un odore d'aria che oggi non è buona. Diretto verso casa, sopra asfalto e cemento. Con la fronte verso nord e alle spalle il centro. L'ultimo notturno è perso perché il passo è lento. La penna stretta in pugno e butto giù un nuovo testo. Cuffia a palla, zaino in spalla, mente che si spanna. La mano che lo callerò la svelto un'altra canna. Ecco il solito pensiero che si affaccia a casa mamma. È sole stanca che mi aspetta in piedi mentre si danna. E quando Roma brucia e cade, io respiro in una nube polvere d'amianto antrace. E dopo il rombo mentre tutto tace, io respiro quest'aria e tu già sai che non mi piace. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Frequenze basse, più frequenze moleste. L'aria non è buona se si muovono le teste. Oh, alza il volume, senti il suono che ti investe. Come dice Biasci, capro le bestie. Figli di un mondo avariato, figli del peccato. Quindi più lo guardo, più mi lascia senza fiato. No, non ho di fatto fiducia nel creato. Ciò che vedo non mi piace, la ragione del mio stato. La strada è buia e la mette nel mio trascorso. La scia del fumo della laghi traccia il percorso. Più che ben disposto, sono tutto l'opposto. Volume a palla, il clima freddo, gelo e mi inchiostro. Mentre cammino, testa e cuore se ne vanno. Penso alla mia amante, sole nude in un capanno. L'aria è giusta se le mani stanno sul volante. Gli do gas quando si fa pesante. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto. Questa è la mia aria, oggi non è buona. Non dirmi parola, tu non farlo ora. C'ho la testa nelle casse, le casse dentro l'alcol. Mando fuoco al mondo quando accendo l'impianto.